ma la su questi tre quintali bisava di sopra di tempi, era mucusati, lui era strutturati, babà via. Non era, ci sono quelli selezionati che sono magri, che hanno tutto carne, che era un po' di ghisci gialli. Strutturati. Ci sono quelli di razza proprio che sono magruni, li chiamano, perché quelli sono tutto carne, sono, non hanno grasso, hanno poco grasso. Chi si accucciano i buchi, la via minuisce, sì, selezionati da carne proprio. Gianni, bah. Cuocomane sarei tu, hai capito, ma con l'inocondo? Buonasera a tutti, stavo tornando con la spesa e stavo ascoltando un attimino. Porca miseria che caldo, c'è un vento bollente, una cosa allucinante, tipo incendio me. Ehi, che fugo, bisara. Natali, stavo cambiando apparecchio, ciao ma. Ciao già, ho capito solo ciao perché ecco, molto C'ha la mania dell'eco questo Gianni, doppio rumore, te l'immagini? C'ha la mania dell'eco, c'ha. Guarda adesso, lo stavo pulendo e sicuramente ho toccato il cursore senza accorgermi. No, adesso già va bene, là. Sì, adesso va bene. Ho detto, mamma mia, l'altra notte, quando sento i fulmini, ho detto, stacca tutto. Lo sapete, qua c'è stato un blackout di 10 ore, è mancata la luce dall'una e mezza di notte alle 11:30 di mattina, tutto rifilato. Ah, vero, no, qua no. Però ho sentito tipo uno sparo, quando c'è un corpo, va, proprio una cosa così, ho sentito fulmini. E dopo l'acquazzone, quando è stato, non ieri notte, l'altro ieri, no. Caspita, mai era durato così tanto un blackout. Temevo anche per il freezer che cominciasse a cedere, a sciogliersi la roba, però vabbè, i salottini chiuso non si scioglie niente. Va bene, riprendete perché io non riprendo che devo mangiare ancora. Dai, un saluto a tutti, c'era anche un altro segnale che ha fischiato, Santiago 8:30 così. Va bene, un saluto festoso a tutti, vai Natalino, ciao. Ciao Marco, buon pranzo, dai, avanti già. Ehi, mi sto immaginando a Marco per non farci dei gelati, mangia dei gelati uno dietro l'altro. Ehi, non dirlo scherzo a me. Gelato un biscotto, coppette, coni, poi con lo stecco, del cim, il magnon dei poveri lo chiamo, eccetera. E anche io già vi do una bella sussa, ecco, proprio le vaschette, oi. Se non me ne aggavano in terra ti me la mano di. Cavazzina! Che è successo? Guarda, finché mi tiene la glicemia mi do la bella pazza gioia, poi quando non terrà più, va bene, riparleremo. Io ce l'ho a 79, ce l'avevo a pranzo, non a testa. Ehi, già va bene, se ce l'avevi bassa. E bassa era. Infatti non mi ho fatto insulina, ho mangiato e dopo ve l'ho fatto, perché sennò magari va troppo di sotto, capito? Io la faccio solo la notte, quella lenta e buona. Per tutto il giorno c'ho la pastiglietta. Io sto impazzendo, non riesco a mandare l'email con le analisi fatte al dottore. E ne ho mandato tre, ne ha ricevuto una, poi mi ha scritto che l'email non era giusta, che non era quella giusta, l'ho ricontrollato ed è quella, oppure controllato se non avevo scritta giusta ed è giusta, boh, non riesco a mandargli l'email. Adesso che sia qualche problema di linea o qualche cosa del genere, adesso lo provo domani, se no gli vado della porta a mano e ce la mille a lui. Vuol dire che non è giusta l'email, che se lui non la riceve non è giusta, o l'hai scritta male tu, o non te l'ha data giusta, ha sbagliato qualcosa. No, io l'ho scritta uguale a quella che mi ha dato lui, se ne ha ricevuto uno di documento, ha ricevuto solo quella delle urine, capite? Non ha ricevuto le altre due. Prova a rimandargliele. Infatti cercherò di rubandarle di nuovo, vediamo un po' come va. E tenta sarei più fortunato. Infatti. Boh. E non si esci dunque, Natali. E cosa? Ah, rimani, sono andato a farmi i tamponi a farmacia. Posso vedere lo stesso? Perché deve essere confermato il tampone che ti fai tu dalla farmacia, no? Se ne fanno un altro e guardano a vedere se sei positivo o negativo, perché una volta che sei positivo sei ignorato. Io c'avevo quello di fronte, tutti e due positivi. A me ne è avanzato uno di tampone, però da Concetta gli faccio comprare altre tre, non si sa mai. E due basta, non lo so tre. Avevi due barommi, non mi? Ah, ecco, ho capito. Acciugavite. Questo meglio vale l'altro. Sì, gli vanno bene, va bene uno e l'altro, tutti e due. Cava cava. E vabbè, tanto mi adesso. Queste che ciò è buon passo, finiti questi, se si rompono c'è la mille luce. Infatti, non conveniva venuta. Infatti voi dovreste avere tutta la banda radioamatoriale, nel senso che diventate tutti radioamatori, ne rimarranno pochi qua ci noi. E diventiamo tutti radioamatori e io... Vogliamo parlare. Entro ugualmente in 27. Volete sapere che cosa ci faceva lei? Tanto mi, se non entrate in 27, vi mettiamo la portante in 145 MHz. E mettimi la portante, che ti faccio arrestare, hai capito, pirata? Ci manca solo quello, mi, ci mancherebbe solo quello, visto anche il portantista ancora attivo e ce l'ha sempre con Giulio, capito? Un paio di giorni, stavo ascoltando un paio di giorni, come entra lui, ta ta ta ta, niente, non è cambiato niente. Sì, l'altro giorno c'era Cristian in macchina, stava tornando al Ghero, stavamo parlando, è entrato questo con la portante, gli ha messo la portante, si quando ho dovuto chiudere buonanotte, perché a Cristian non lo sentivo più. Ma che gusto che ci provano, ma cosa la buona ne fai, si ha portato a disturbare e basta, bel gusto a disturbare le persone. Vabbè, io già voglio qua. E infatti, ci sono macchini e basta, cosa c'hai in chi va di cibare niente, la va a incazzare, ma insomma, non si fa. A proposito dei baracchini, io praticamente da... sarà un mese e più che ho lasciato questo, il Taylor quarto, piccolo piccolo, omologato, 40 canali, MFM, non ne sto cambiando altri, e c'è peraltro due dita di polvere sopra, tanto mi per dire due, per fare due chiacchiere va più che bene, inutile avere SSD, coso, i watt, i cosi, le menate, l'eco, l'autoascolto, che peraltro questo c'ha, capito? Vabbè, c'è ancora la pellicola protettiva sullo smitter e display. Figurati un po'. Il ricevitore l'ho abbandonato, quello VU, perché avevo staccato l'antenna per non far entrare caldo. Tutto l'ho spento, c'ha due dita di polvere. Devo pulire tutto e... gli altri baracchini me li attacco tutti a culo, posso dirlo, sì. Prego, mica dopo ti dicono che sei scurrile. E sono colorito. Ah, colorito, giusto, colorito, già va bene. E infatti adesso mi devo comprare il rosario io, perché bisogna stare col rosario in mano. Oh signore. Non faccio favoritismo. Ma per l'esame? No, bisogna stare col rosario nel parlare, bisogna essere educati, non bisogna capire. Bisogna stare sempre il rosario, dimmi. Ma pensavo... Ah vabbè lì puoi sventiare meno, per quando già si sventia, in locale già si sventia ogni tanto, dai, anche lì, già si divertono in VHF, insomma, seri ma non troppo, dai, ogni tanto ci vuole la battutina, e se no risultate come quella di autore di 40 anni fa, mamma mia, Cristo. Sì, tipo professor Cutolo parlava, no, tutti tipo lezione. E così. Oh, ma vabbè. Ah, se non mi va, mi metto a fare CV doppio e basta. E no, così almeno non dico parole. parolacce, non hanno da dire niente. Se vogliono parlare con me devono imparare il CV2. E tu basta parolacce in cibo doppio anche, capito? In FT8, in RTTY, tutto. Ci manca solo quello. Va bene, signori, io vado a pappare. Un saluto festoso a tutti e a quelli ti per me. Ciao. Vada. Ciao, aspetta, te lo sto mandando, mi devo. Grazie, aspetta che metto WhatsApp nel computer così me le vedo. Ah, ma lei non era da sola, dai. Però ho detto che c'era l'istruttore dietro, che se sbagliava qualcosa la correggeva. Però era sola, non erano attaccati. Ogni tanto la mollava, poi si riavvicinava, capito? Ah, ho capito, io pensavo che era imbragata a lui. No, ha detto che all'inizio l'ha mollata senza paracadute, dice cazzo che volava come un pezzo di carta, cazzo, da una parte all'altra. Te credo. Poi ci ha preso il paracadute e lui praticamente faceva i filmati e cose, poi gli stava vicino e se aveva qualche problema gli ha detto come doveva fare per avvisarlo, eccetera, capito? Infatti. Ma mandatemi con coraggio, mia burana, carino. Tu l'avresti fatto, io sono i vertigini, non l'avevo mai fatto. No, io non le soffro le vertigini, però è una cosa che so che è pericolosa, capito? Lo so, però i giovani sono fatti usci. Qua stanno atterrando, mi pare. Atrivida. Emozioni grosse queste. Cazzo, l'ebbrezza del volo ha provato. Ha fatto Icaro. Ah no, quella è capace di fare qualsiasi cosa, quella ragazza. Fidiata, tu dice, non teme nulla, non teme niente. Vede, mi telefono un altro giorno, stavano andando a cosa? Come si chiama? San Teodoro, dove vanno andare in una spiaggia rinnovata lì a San Teodoro con l'amica, però stavo guidando l'amica. E mi ha telefonato, io stavo parlando con l'amico al telefono, sentivo che c'è lì, stava chiamando, poi dopo come ha smesso ho chiamato, ho detto cosa c'è Emanuele, dimmi, no, quanto oramai è tutto risolto, cosa è successo? E ci si è scoppiata la ruota lì davanti e ha cominciato a sbandare la macchina, la muove in mezzo strada. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato un posto per ripararci lui e la macchina perché era troppo in curva, secondo come arrivavano le macchine ci prendevano in piedi. Siamo usciti dall'altro sportello, tutti e due, e abbiamo chiamato i soccorsi, hanno chiamato l'ACI, e sono andati, hanno preso la macchina, l'hanno caricata su un carro attrezzi perché c'ha l'ACI, l'amica dell'assicurazione, l'hanno portata a Olbia e l'hanno cambiato la roba. Figurati. E voleva qualche consiglio cosa fare, capito? La prima cosa è che devi mettere i giubbotti, anche se di giorno, mettere il triangolo per avvisare le macchine, ma papà passavano sparati, non faceva mettere il triangolo. Secondo dove erano sparati, sì, si dovevano mettere i giubbotti, hanno fatto bene a cercare un posto dove poter, diciamo così, essere più al sicuro, hanno fatto bene quello, capisci? Era la strada che porta da Olbia a Nuoro, praticamente c'è lo svincolo prima di arrivare a Olbia che va a Nuoro, San Teodoro, eccetera, eccetera. Era quella strada lì, è arrivata la stradale, poi è arrivata l'ANAS, la stradale per il traffico, poi è arrivata l'ANAS e l'hanno caricata su carattere, c'era un po' da tallone alla macchina, dal gommista. Sì, i previsti ci sono, Natali, perché girano, capito, girano e sono invidiati. Ah, mi dimenticavo, era da vedere anche il concerto a Olbia. Ma quando c'è, cos'era lui? Sono domani che è giunto a pranzo. È un'altra volta che sono venuti a casa a prendersi roba. Avevano finito l'acqua, mi ha detto, papà, trovati i negozi chiusi, devo comprare l'acqua, passa a casa che te la voglio l'acqua. Ma se no va sempre in giro, già è in giro. E fazzi lei, non manco così di vecchio. È a posto col lavoro e tutto. Questa ragazza già c'ha la testa sulle spalle, dai. Tranne per il paracadutismo tutto il resto va bene. Ehi, no, a lavoro mi piacerebbe, ne ha due di lavori, non lo so. Lavora sia in un istituto di persone con handicap, roba del genere, fa l'insegnante lì, e poi la sera va da un autista, a un autistico, a insegnare a fare i compiti, tutte queste cose qua, capito? Ho capito, quindi la vita già se la guadagna. Sì, attiva anche sul lavoro, attiva, ma come sul lavoro? Come un attimo libero, lei fa, c'è un lavoro, quindi andandosene in giro, no, si riposa lunga, poveraccio. Niente, facendo un lavoro, per dire, telefono un'amica, pure se ne esco. C'è un'amica a Bologna, c'è un'amica, è venuta qua in Sardegna, l'ho invitata a pranzo, tutto quanto, là. Andava ragazza, è araba, però non si vede che è araba, è una bella ragazza, veramente. E non mangia solo maiale, infatti me l'ha detto, ma allora non fare maiale perché non ne mangia. E perché loro dicono che è un animale in culo, perché dice che si è mangiato a Maometto. Ed è per quello che non mangiano il maiale gli arabi, cioè gli arabi musulmani. Sì, vabbè, musulmani. Allora, c'era Omar, un negretto che vendeva la roba fuori del negozio, no? E quando passavo li facevo. E lui si metteva a ridere, pucci maiale. Ehi, hai capito? Ma io ce ne ha bisogno di venire meglio di venire. Ma io ho detto, tu lo sai cosa ti prendono? No, maiale no, pecora, maiale no. Infatti io ti mangiano di più la pecora. Buco no, perché è un animale impuro secondo la loro religione. Gloria. Vabbè, ognuno ha le sue di cose, intendenti di cose, ma questa ragazza di musulmano ha poco, capito? I genitori sono musulmani, ma lì, per dire, va al mare, non è che si copre col velo e cose, si mette anche per il giorno a fatti un po'. Quello del velo spetta a loro, aspetta, hai capito, spetta a loro se metterlo o no, se no da 14 anni lo dovrebbero mettere. Vabbè, ma quando va al mare c'è di buono il velo, quando va al mare lì c'ha il tanga, c'ha questo mini succinti, non è... Non rispetta tutte le leggi, i genitori non lo sanno che è così, perché sono guai. I guai, infatti, che da scandalo, perché la donna musulmana la deve vedere il padre e il fratello, basta, e il marito quando è sposata, se no in faccia non la deve vedere nessuno, perché danno scandalo secondo la loro religione, no? La femmina la devi vedere babbo e bu e il marito. E la mamma? E la mamma, da i familiari in pochi barauri la possono vedere, perché da 14 anni dovrebbero mettere il velo quando sono adolescenti, da verso quell'età lì cominciano a metterselo, ma quello dipende dalla persona se se lo vuole mettere oppure no, però dipende da che parte della rabbia sono loro, capito? Ma chi in questi paesi tipo Afghanistan, tipo Pakistan, è praticamente obbligatorio. Se invece sono della zona Egitto, questa zona qui, sono più tolleranti di noi. Uscita e loro praticamente lì c'è anche un ragazzo di Bologna, si usano i genitori guai. Dico, ma sono d'accordo i genitori? No, i genitori non lo sanno, se lo sapessero guai. E perché lì le figlie le rendono loro, hai capito? Fanno i matrimoni combinati, se gli conviene alla famiglia gliela fanno sposare al tipo, se no no. Hai capito come intendo? perché succede che le ammazzano queste ragazze qua, i familiari stessi, perché si sono troppo occidentalizzate e quindi noi, come ti pensa Nieddi, in Arabia c'è ancora questi matrimoni combinati, non lo ricordi quella ragazzina che avevano ucciso, perché voleva andarsene con un ragazzo che non era ben accetto alla famiglia, diciamo così. Lo so, devono avere anche più reni, case, capito, di modo che poi i diventi rimangano ricchi e loro, capito? E allora? Non capisco. Gli interessano i cosi, io c'avevo una ragazza che conoscevo, che era musulmana stesso, e viveva con la zia, lavorava con me, e io dico, ma ascolta, quante pecore gli devo dare tua zia per te? Li beguri, li mu, quante le vacche e le pecore gli devo dare, e i camelli, abbiamo barguru, gatto, ma chi da, se ne mette a ridere. E a una amica robusta, una volta si è avvicinata al mare questo nero e ha detto, tu 1000 cammelli! Quanto? 1000 cammelli, perché gli piacciono le persone robuste. Ah, cazzo, l'ho capito. E io gli dico, ma quante pecore gli devo dare a tua zia per te io? Gli dico. E se ne metteva a ridere lì, cazzo. A chi usa via che li rubiglieni quelli di dietro, no? Cazzo. Che sei riuscito a sapere dai telefoni? Il signor Salvatore, ma quante vacche o pecore gli devo dare alla zia io per... Normalmente come si chiamava, ma aveva imparato a scrivere il nome mio in arabo. Non me lo ricordo più perché si scrive alla rovescio. E poi le lettere sono diverse, non sono come le nostre. Ma io lo sapevo fare e si scriveva alla rovescio. Discorso in sospeso. Ma quando l'hai mancito? No, alla rovescio, non iniziamo a scrivere come iniziamo noi, dalla sinistra verso destra. Dalla destra verso la sinistra. Si scrive. Capito? Cazzo, io lo sapevo scrivere natalino in arabo. Me l'aveva insegnato lì. Ciao ragazzi, lei quindi parlava tutta la lingua? Poco, parlava un po' di francese, però è un francese senza l'accento, praticamente quello che parlano loro, non è un francese Francese porchedino. Infatti, un francese porchedino, non è come te, lo francese di rifrancese, brutti. Vabbè, quest'anno dice che è pieno di russi, che già lo sai, pieno di russi dice che. E dove? In Sardegna, sono venuti a farsi le vacanze, molti russi. A chi ce l'avevi pigliato l'avevi ammazzati subito. L'avevo fatto in Parigi, così non ci venivano più a rompere le balle. Ma non sono tutti d'accordo con tutti, non sono tutti d'accordo con russi, perché ci sono russi che sono sposati con l'Ucraina, eccetera, quindi non sono tutti d'accordo. In pratica è lo stesso popolo, hai capito? Gli ucraini... È logico che sono sposati con le russe o viceversa, ma cosa sono rumatessi boffolo, praticamente, solo che gli ucraini sono più... Allora sai da cosa derivano? Dai cosacchi, i cosi, gli ucraini. Vabbè, io li ho avuti tutti e due. Sono lo stesso popolo, praticamente, hai capito? Hanno un carattere molto duro, molto... Perché dice che i maschi là sono duri, capito? Non fanno regali alle donne, niente, proprio le trattano molto duramente. Infatti loro gli piacciono gli italiani perché sono affettuosi, fanno regali, eccetera, capito? E anche in Germania, per esempio, gli uomini sono freddi. Le donne che sono calde, ma la sorte, e si assomigliano agli italiani, ma chi sono? E gli spagnoli. sono molto carini. Che bella è una bambola, eh? Cioè, ci sono quelle brutte, ma quelle che sono belle veramente. E anche quella che era sposata con quello che c'era la pizzeria, dove abitavi tu prima, senza fare loro. Ho capito. Ma quella non era niente di speciale, mi. Ho visto tedesche che ce le vedi attrici. No, era una bella donna, anche quella, io mi ricordo che era una bella donna, qui si è cambiato, non lo so. A me lo dico, sono passati 50 anni. Mi sa che non c'era più quello lì, la pizzeria. C'aveva quella... Ultimamente, oddio, chissà quanti anni sono passati, quella nella strada per andare al Latte Dolce, perché quella di vicino a casa dove abitavo io l'aveva data a quell'altra persona. C'era anche quella Latte Dolce, quella lì dove c'è la Gravia, là di fronte. Quella lì faceva le feste per la festa della donna, tutte queste cose qua. E già ce l'aveva da fare lui. Era sempre pieno di macchine lì, sempre pieno, metteva musica, faceva musica, roba del genere, che attirava la gente, capito? Poi non sono, non l'ho più visto, non so che fine abbia fatto, se ne è ripartito in Germania. Perché lui le faceva queste pizzerie e poi se le vendeva, le avviava e poi se le vendeva. Era proprio una sua tattica. Infatti. Comunque era buona la pizzeria, la compravo, lì era buona. Infatti. Guarda gara, tu ce l'avevi attaccata a casa tua. Infatti. Mi raccomando, l'avevi attaccata, brutta. Anche in da Fontanella, che io mi ammetto che alle luminose andavo bene sempre. Adesso passi, tutto quanto secco, tutto quanto fasciato. Ma non c'è più la Fontanella, ragazzi, io sono passato e non ci ho fatto manco cazzo. No, già c'è, ma è secca, non funziona più. La Barani si arraddureva. Anche vicino a casa l'hanno messo le fontanelle, proprio di fronte al portone dove c'è quella specie di giardinetto, qualcosa con le palme, dove c'erano le palme piccole. Lì c'era la fontana, l'hanno rubata due volte, poi alla fine si è rotto le scatole, il comune non ne ha più messo. E hanno lasciato la parte di sotto il sole, si rappava le rigirighe da lui che si basiano, e allora l'hanno tolta, l'hanno tappato tutto. Io la so. Aia. Pronto, Linda? Dovrebbero essere le... Poi mi piego. Per la pezza, ascoltami. Sono le 7:15, sono. È quasi il 20, sono. Già è presto ancora. Io mi sono fatto un po' di canzoni poco fa da lui. E adesso c'è la che sta cantando. La sì. Eia, si sente. Facciamo a turno. Prima due da Boienda. Perché ci sono i contest in realtà, lì, capito? Come il baracchino, ci sono i contest. Praticamente partecipi, io adesso sono una star, mi hanno messo vicino al nome star con la corona, perché ho vinto un contest e quindi ho la corona e mi dura per una settimana, poi dopo una settimana devo di nuovo conquistarla. Ho capito. È bello, ti diverti un bel, perché puoi parlare con la chat, parli e poi puoi anche cantare, ti metti in coda, c'è scritto coda, ti metti in coda, scegli la canzone che vuoi, ci sono tante canzoni, e ti metti in coda, ti mettono per dire coda numero 3, e sei il terzo, capito? Aspetti che cantano gli altri due e poi capito. E ha giocavito. Metti te lo star marker che ti distrai a cantare. A me non mi piace a cantare. Come si chiama? Star Macker, Macker con la K. Io ho capito. E catta, si sente una moto qua. Ogni asplato di moto. Perché c'ha le candele che non sono... La candela della moto che non è isolata. Mi piace così. E senti il motore della moto dentro. Che ce ne sono poche vedi, tavespe, di tutti i viso vendete, molto belle natalici, che vedi da noi, vedi quella strada. 2.000-2.500 euro c'hai i Kawasaki, i Suzuki, ma belle le nuove nuove. Gianfranco qui ce l'ha comprata una, ha pagato 1.500.000 mi pare, 1.500 euro. Ho capito. A mamma mi interessa un 125, tanto basta farmi la chiesa, le commissioni, non mi interessano quelle molto così. Ma ce l'ha avuto per forza la spesa, te la devi comprare con la pedana larga davanti, dicono che si può pure la roba. Infatti, una di quelle ne sto cercando, ma anche 50, mi. Non mi interessa che sia con la targa. E anche 50 adesso ce l'ha con la targa, Ce l'hanno privata adesso, te la tolgono la targa e te la devi fare tu quella targa, ogni volta che tu cambi moto 50 la devi trasferire nell'altra volta. Ho capito, io ce l'ho la targa dell'Aprilia che avevo. Quella è la più vecchia dell'altra moto, capito? Per il padrone invece ce la prende la targa e ti rimetti quello. C'hai il libretto e tutto quanto. No, il libretto non ce l'ho. C'ho la targa solo, devi matricolarla con quella targa e ti danno il libretto. E comunque ho una gattata perché è inutile che tu ti metti sempre la stessa targa. Se vedi una Samoto da un'altra, diciamo, più nuova, più vecchia, quindi la targa dovrebbe essere nuova. Comunque tutta una legge particolare che hanno fatto. Anche io ce l'ho quella della Aprilia. C'avevo l'SR50 io della Piglia con tutto fatto, c'aveva i rubi da lungo, c'aveva la marmita, c'aveva un sacco di era via arrivato da lui, un bel roba, camminava, faceva 110, faceva quella moto. Io l'avrei voluto una moto 50. Adesso vediamo un po' se riesco a procurarmela una. Vabbè, già, io ti devo lasciare perché mi devo misurare la glicemia e devo mangiare, capito? Va bene Natalia, buon appetito, allora ci sentiamo, alle prossime, se Dio vuole. E se i carabinieri permettono? Ah, quello non c'è problema, sono pulito io, non ho niente da temere. Hola, canales de que. Hola, hola, hola, amigo de la España, si ascolti Isola de la Sardegna.